Siamo tornati sulle frequenze di Radio ZM, sono le 19.26, oggi è il 12 marzo 2020. Queste, come si chiama, queste skills di benvenute alle radio, non sto ancora imparando, però ci sta. Sono molto belle, cronache di resistenza da Milano Sud. Registriamo tutto da... Abbiamo deciso in questo periodo di dare una... Poi che diciamo... ne sappiamo, saranno... Noi invecchiamo, eh? Cioè, queste qua saranno i story per i nostri nipoti, e mi ricorderò bene. Quindi tu dici, Fergi, che stiamo scrivendo la storia. Tutte le cazzate che ho fatto dentro qua, cioè, guarda. I will remember and gonna be a story for our grandsons and granddaughters. And grand... Siamo, io c'ho questo un altro rivista di internazionale. Ok. Che potrei anche continuare. Fergi, ti stai agitando, sei scomodo. Mettiti comodo, Fergi. Mettiti comodo che tanto inizio a leggere un articolo che ho letto. Non si alza più, oggi. Ma fa niente. Aspetta. Madonna, Fergi, mi fai paura. Ello. Ok, oh, così face to face. Ti vedo molto meglio adesso. Giro, vabbè, fa niente. Tanto il tipo di dietro. Il tipo di dietro non ti sta neanche toccando. Cioè, non ti sta facendo niente il tipo di dietro. Di dietro. Anche perché è molto lontano. Perché ripeto, qua teniamo tutte le norme igienico-sanitarie da adottare. Sono tutte perfette. Quindi, ho in mano questa rivista di internazionale da, ovviamente, da settembre del 2009. E mi sa che questo è il passato, il coso dell'influenza suina, mi sa, a settembre. Direi. Che poi, tra l'altro, una cosa volevo dirti, Fergio, a proposito di questa cosa. Ieri c'era un servizio, non so perché stavo guardando il TG1, quindi spoiler, a casa TG1. Non c'ho il TV. No, neanche io, però stavano guardando dal computer i miei coinquilini. Ascolto una notizia e stavano facendo un paragone, o comunque un tentato tale, rispetto all'influenza H1N1. Sì, quello vecchio. E hanno parlato di 1 miliardo di morti. Hanno detto... un miliardo di contagi, e contagi milioni, non... e milioni di morti. Io sono andato a leggere, i numeri sono totalmente diversi. Diversi intendi che non so... Sono più alti o più... Più bassi. Di quel servizio che era catastrofistico. Infatti, poi il dato alla mano era diverso. Fai conto che 10 anni fa non abbiamo così tanti smartphone in giro. Non ci sono... Ma va, assolutamente. Assolutamente no. Cioè, 2009 ancora sì, però se scavi anche di poco... Non so. Durante l'11 settembre la nostra comunicazione era totalmente diversa da adesso. Non voglio sparare cazzate, però a me mi sento... Non farlo. Mi sento proprio i miei zio, no? Ti senti il tuo zio? Sì, mi sento... No, parlo, cioè, proprio direttamente. Parlo come un vecchio adesso. Vabbè, ma che c'entra, Fergi? Sì, la vita va avanti e le fasi della vita sono diverse rispetto ad altre, però... So di questa, preoccupa di questo. Ok, ho capito. I tempi una volta erano tempi diversi. Sì. Lo so, Fergi, però minchia, ormai sono nel loop adesso. Ma non essere così giudizioso con te stesso, non ti preoccupare. Però ti volevo raccontare una cosa di cui abbiamo parlato ieri. No? Ti ricordi che abbiamo parlato dei militari? Un altro discorso, madonna. Oggi è uscito un articolo. Anzi, oggi è uscito un articolo che poi riallaccerò un articolo più vecchio. Qui l'articolo di oggi è del posting Huffpost. Il virus ridimensiona Defender Europe, che è appunto il nome dell'esercitazione di cui abbiamo parlato ieri. Il virus la ridimensiona, la rende più piccola. L'Italia non partecipa all'esercitazione USA. Attenzione, non partecipa, però. Questo è il titolo dell'articolo, leggiamolo. Però questi maledetti l'hanno invitato quante? 3.000? 30.000? No, sono 30.000. 30.000 soldati americani. 20.000 che stanno arrivando, in teoria 10.000 più 7.000 della NATO, quindi sono 37.000 soldati. E c'era tutto il discorso che abbiamo fatto ieri riguardo al fatto che questi militari portano dei blindati. Sì, questi blindati, ovviamente, sono mezzi blindati che hanno bisogno di alcune strutture importanti per passare nei luoghi. E in Italia, per esempio, il nuovo Ponte Morandi rispetta le norme per poter sopportare il peso di tonnellate e tonnellate di cingolati. Magari non ne arriva uno, ne arrivano 30 sul ponte, passano tutti insieme. Le strutture devono essere in grado di sostenerli. Sì. Quindi questo ha dei costi. E questi così si parlava di miliardi di euro che potevano essere stanziati. Leggiamo, ma era anche portarlo qua, cioè, leggiamo l'articolo. Le benzine, il petrolio che esatto. Erano... Aggiornamento al 12 marzo, che l'articolo è dell'11, quindi siamo oggi. L'esercito americano ha annunciato mercoledì sera di aver deciso di ridurre la portata dell'esercito militare Defender Europe 20 a causa dell'epidemia di coronavirus. Dopo un'attenta revisione delle attività in corso nell'esercitazione Defender Europe 20 e alla luce dell'epidemia causata dal coronavirus, modificheremo l'esercitazione riducendo il numero dei partecipanti americani, ha annunciato l'esercito in un comunicato stampa. Le attività associate all'esercizio saranno adottate di conseguenza e collaboreremo strettamente con i nostri alleati e partner per raggiungere gli obiettivi prioritari stabiliti per questa esercitazione. Parallelamente, il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha dichiarato che i militari italiani non parteciperanno a questa esercitazione USA. Gli uomini e le donne della difesa sono in campo senza sosta per fronteggiare in questo delicato momento l'emergenza sanitaria e per garantire l'attuazione delle importanti delibere decise dal governo, ha detto Guerini. Per questo ho valutato, congiuntamente con lo Stato Maggiore della Difesa e informato il Comando NATO, di non confermare il nostro contributo all'esercitazione Defender 2020. Pur sostenendo il valore strategico dell'esercitazione, ho ritenuto opportuno mantenere massimo l'apporto delle forze armate. E qui inizia l'articolo. Nessun complotto. La maxi esercitazione USA in Europa era in programma da anni, ma un problema di opportunità e sicurezza grande quanto una sfida sanitaria globale, quale è appunto la crescente epidemia di coronavirus che si sta allargando al mondo intero. Questo è il dilemma attorno al Defender Europe, il più grande dispiegamento di forze nel vecchio continente da almeno 25 anni, come recita un orgoglioso sito della NATO. Se volete nell'articolo c'è il link per andare a vedere di cosa stanno parlando. In corso non c'è nessuna invasione americana, come probabilmente avete visto circolare in rete, ma l'inizio, questo sì, di un'esercitazione multinazionale guidata dagli Stati Uniti che comprende la partecipazione della NATO. L'obiettivo? Dimostrare l'impegno degli Stati Uniti nei confronti della NATO e la sua determinazione a sostenere i suoi alleati e partner europei. Messa da parte ogni teoria complottista, resta il problema dell'opportunità di un'esercitazione volta a testare la mobilità militare in Europa, proprio in un momento in cui gli esperti di salute pubblica ci dicono di restare il più possibile fermi. L'Italia, dopo la provincia cinese di Hubei, è diventata a suo malgrado un caso pilota, ma anche nel resto d'Europa ci si sta iniziando a rendere conto di come, ad oggi, l'unica arma di cui disponiamo per limitare i contagi sia ridurre le occasioni di contatto tra le persone. Far circolare meno gente possibile e limitare gli spostamenti. Ecco, non è esattamente questa la logica in cui si ispira il Defender Europe, maxi esercitazione che coinvolge 37.000 militari in 18 paesi. Quindi c'è un paradosso. Sì. Dagli Stati Uniti è previsto l'arrivo in Europa di 20.000 soldati. Il primo contingente è sbarcato nei giorni scorsi al porto tedesco di Bremerhaven. A loro si uniranno altri 10.000 soldati americani già presenti nel suolo europeo, a cui si andranno a sommare altri 7.000 soldati di 18 paesi membri parte della NATO, tra cui l'Italia. Il totale appunto fa 37.000 soldati coinvolti, che prevede anche il dispiegamento di oltre 13.000 mezzi tra veicoli corazzati, aerei, navi e sottomarini. Wow. L'obiettivo, spiega il sito del comando USA in Europa, è accrescere la capacità di dispiegamenti rapidi e una grande forza di combattimento negli Stati Uniti. Immagina come in videogioco, guarda. Per rispondere a potenziali crisi. Come Command and Conquer, tipo. Madonna. Il tempismo della maxi esercitazione è decisamente sfortunato. Dal 21 febbraio, proprio il giorno in cui in Italia si registrava il primo morto per coronavirus, fino a fine maggio, un tempo che ora ci sembra lunghissimo e verso cui è molto difficile fare previsioni. Questo è lo spazio di tempo che avrebbe occupato il Defender Europe. Va anche precisato che le esercitazioni non si terranno come ovvio su tutto un unico luogo, ma si svolgeranno nei prossimi mesi in 6 nazioni europee: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia. Oddio. Tutti i paesi dove sono stati segnalati casi di Covid-19, come lo sono chiaramente anche gli USA, dove il numero dei contagi ha superato quote 1000 e si contano già oltre 30 morti. Per ora l'esercitazione non sembra aver subito limitazioni a causa di virus. virus, sebbene i vertici militari non escludono possibili rimodulazioni in corso d'opera. Il comando europeo dello US Army, che coordina i movimenti americani, sta monitorando da vicino il Covid-19 e sta lavorando diligentemente con i funzionari delle nazioni ospitanti, mentre prosegue l'esecuzione di Defender Europe 20, si legge sul sito ufficiale. Per ora, si aggiunge, il virus non ha influito sull'esercitazione dell'esercitazione, mentre è costante il confronto con le autorità sanitarie dei vari paesi su cui le truppe si stanno muovendo. Abbiamo dei piani di assistenza sanitaria e medica per identificare eventuali carenze che potremmo avere o stiamo affrontando tali i requisiti che ogni singola nazione ospitante, ha rimarcato il numero 2 dello US Army in Europe, Andrew Rowling. E quindi c'è... ci stanno riempiendo di questi soldati brainwashed, jarhead. La roba che mi preoccupa, cioè, non è che ci sto, non ci sto di questa militarizzazione proprio, no. La roba proprio peggiore è che non esistono più. Cioè, l'obiettivo. Cioè, l'origine virtue di essere soldato non esistono più. Cioè, diciamo, sono persone senza cervello, psychopath, armati e arrapati. Cioè, io lo vedo così. Queste 30.000 americani, poi, americani. Cioè, sei presente il livello del sissismo lì dentro? Il livello del nazionalismo lì dentro? Sì, certo. Cioè, beh, sì, sono fuori di testa. Non solo, sono psicopatici. Certo. Fuori di testa sono io, ma loro è proprio un altro di me. Cioè, è pericolosissimo perché sono armati. Cioè, poi loro, se magari uno esce, non so, fa un po' di, you know, just to go out to have fun for their free time, non so come si chiamano, cioè ovviamente il loro tempo libero dei soldati. Metti caso che magari qualcuno si prende male di questo, si insulta, o magari solo per scherzare, magari vanno in Puglia, si scherza malamente, proprio, non so, insultano, ma è soltanto scherzo, no? Magari questo americano si piglia male, prende la pistola, spara questa. Loro non possono, da queste case qua, cioè, non possono giudicare davanti al giudice italiano. Cioè, dovrei portarlo proprio nel come si dice? Cazzo, mi perdo sempre. Ieri cercavo questo proprio termine in cui ti perdi. No. No, il cioè, il giudice del militare, cioè, perché tu, non so, loro, sì, sono protetti di questa legge. Ok. Vanno qui per, non so, se ammazzano qualcuno, sì, non possono entrare subito in galera e spendere, cioè. E tu dici un giudice apposta per i militari, o una legge per i militari? Sì, no, certo, avranno sicuramente delle leggi differenti dalle nostre, certo, sì, anche, spero anche peggio. E sono piccioni armati, più certo, o meno. Certo. Io immagino così, piccioni armati e arrapati. Vai, Sergi, abbiamo fatto questo piccolo break, leggo gli ultimi pezzi dell'articolo e concludiamo. Allora, sui profili Twitter del comando, aiuto, si spegne il telefono, europeo degli Stati Uniti, USA European Command, e dell'esercito europeo degli Stati Uniti, USA Army Europe, il tema del coronavirus si è fatto strada solo negli ultimi giorni, con dei link e schede informative di aggiornamento. Tra i tweet del comando europeo USA ce n'è anche uno che ricorda le azioni semplici, oltre a essere vaccinati e prendere le medicine, che le persone e le comunità possono intraprendere per contribuire a rallentare la diffusione di malattie come l'influenza pandemica. Con tanto di hashtag coronavirus. Sul sito, intanto, un comunicato dell'esercito racconta quanto sia stato bello il concerto degli US Rock Band a Powitz, in Polonia, parte di un tour a sostegno di Defender Europe, per superare le barriere culturali e linguistiche grazie al linguaggio universale della musica. C'è il link anche sull'articolo. Piccoli dettagli che suggeriscono come, giuro Fergio, ho finito, finora l'emergenza coronavirus che pensavo che già finito per sia stata almeno in parte sottovalutata dai militari USA, del resto coerenti con l'atteggiamento assunto fin qui dal loro commander in chef Donald Trump, preoccupato solo per l'impatto economico dell'epidemia e per le possibili ricadute della sua relazione. Nel Pentagono, però, qualcosa sta cambiando, come scrive oggi Reuters. Ieri il quartier generale della difesa USA ha ammesso che i casi di contagi sono probabilmente sottostimati rispetto al conteggio ufficiale. Parando con la garanzia dell'anonimato, alcuni funzionari hanno ammesso che, in generale, la giovane età e la buona salute delle truppe rappresentano una sorta di benedizione mista, che può consentire ai militari di resistere meglio al virus, ma forse anche di diventare portatori con pochi e nulli sintomi. Portatori, secondo me. L'esercito ha rivelato lunedì che il comando del USA Army Europe, il signor Christopher Cavoli, potrebbe essere stato esposto al coronavirus durante una conferenza con i comandanti delle forze di terra europee venerdì in Germania. Reuters ricorda la positività al coronavirus di Salvatore Farina, il capo dello Stato Maggiore dell'esercito italiano, che 3 giorni fa ha annunciato di aver contratto la malattia e di essere in isolamento nel proprio alloggio. L'epidemia non guarda in faccia a nessuno, né tantomeno si ferma di fronte a una divisa. Quindi... è capitato di sentire anche che nelle carceri ci fossero dei guardiani infetti perché arrivavano dall'Odigiano e sicuramente probabilmente avevano contratto il virus, quindi c'è stato tutto anche il panico che si è scatenato è perché sei chiuso dentro insieme al virus fondamentalmente, senza protezioni. Sì, sì, poi un'altra cosa, cioè magari off topic di questa, però secondo me è più un psychological, che dato che ci hanno messo la paura, ci hanno messo proprio la paura addosso, quindi per sopportare, per giustificare, questo dovete avere paura che questo, per non averti paura vi diamo il 30.000, cioè i soldati nostri, così saremo tranquilli, ma non penso che sia collegato, è questo, il punto proprio è questo, il fatto che tutta questa operazione è permessa nel momento in cui non dovrebbe esserlo per un discorso di malattia. E sì, solo ora, quando è già... cioè, è da anni che loro volevano fare questa cosa. Sì. Avevano scelto questi mesi e la sfiga vuole che sia arrivato un virus. Potremmo pensarla in modo diverso, potremmo pensarla con 20 narrazioni diverse. Il fatto sta che in questo momento ci sono dei militari, potenzialmente, che potrebbero essere infettarsi e andare in giro a infettare. Cioè, il paradosso è che in questo momento si limita la circolazione, ma comunque permette di fare un evento del genere. Non ha senso. Solo perché lasci la gente, i militari mica li puoi chiudere in casa, non hanno una casa. No, ovviamente. Non li puoi chiudere in albergo perché devono fare l'esercitazione. Nel momento in cui chiedono ai civili di restare a casa, ma invece invitano 37 militari che avevano già invitato prima, è come se io ti dico: facciamo una festa domani a casa mia. Poi però scopro che ho i topi. E ti dico di entrare lo stesso, sono incosciente perché potresti, o non so, ho un virus in casa. Sì, insomma, inviti la gente per fare i cazzi tuoi, però potenzialmente vanno in giro a spargere il virus anche loro come noi. Sì, che no, consapevole. Esatto, consapevole. Quindi facciamo un balzo indietro di 10 anni, Ferdi, dove ci porti? Nell'internazionale del 2008. Ah, comunque, no, ci sta come queste discorse poi, cioè, potrei condividere che non è 10 anni fa, ma direi 2001. Ho partecipato in questo un corteo nelle Filippine, anzi cioè, ce l'ho ancora la foto, e l'abbiamo infiltrato il Malacañang, tipo il più o meno White House nelle Filippine. Eravamo studenti giovani, avevo 17 anni, mica super piccolo, però beh, certo. non è così piccolo, da noi 17 anni no, pensa di lavorare, piccolo. Però da noi ho partecipato a questo corteo tipo Lightning Rally, in cui noi come studenti uno per uno ci entriamo per non essere notevole, cioè not to be noticed, quindi piano piano riempiamo il palazzo. E una chiamata, dato che sì, Lightning Rally it means you just do it a caso, cioè there would be the one who start shout, purtroppo dei bardati, c'è il cap, and then cioè iniziamo di urlare Bali Katan, we sì. always Bali Katan, 02-1 Salot, e vuol dire it's a curse, cioè mi ricordo 2001, è lo stesso caso, cioè l'abbiamo fatto il contro di imbarchi, di sbarchi dei militari a Mindanao, perché vogliono fare un programma esercitazione con i nostri militari Philippine Army, cioè per aiutarci muovere nella giungla. Beh, ovviamente come i soldati americani non sanno nei tempi di quelle lì non sanno proprio un cazzo come muovere nella montagna, e noi Reds, cioè il New People's Army, cioè il c'è la Moro Islamic, cioè il Freedom Fighters per essere generale, e sono più capace di il military strategy di loro è proprio allucinante, sono come dei il tempo di Ho Chi Minh che fanno il tunnel nelle montagne, quindi e siamo proprio arrivati così, cioè il governo ha dovuto di invitare la stessa cosa, hanno portato migliaia di soldati militari americani, però non è per quello, perché siamo abbastanza autonomi, cioè in ogni isola il popolo filippino non è che sono poveri, sono abbastanza autonomo, riescono a trovare il cibo. Beh, ok, il locazione proprio abbiamo bisogno, cioè di qualsiasi, non solo nel Filippine, ma soltanto in generale. La razza umana, abbiamo questo obbligo di saperne tutto, cioè le informazioni giuste, non filtrate dei patriarcali, eccetera. Sta succedendo. Ah, grande, stiamo chiamando Cigo. E stiamo facendo un po' di prove in radio, prove tecniche. We just need to know how it works. But anyways, it's what I'm telling is the history repeat itself. Pronto? Buonasera, Cigognini. Buonasera. La chiamiamo per gli aggiornamenti quotidiani da Sago Rossa. Tutto bene? Sì, dai. Come si continua? Sei quarantenato in casa sostanzialmente. Quarantena. Con un tono meno provinciale, però, Cigo. Meno provinciale. Fammelo un po' meno Interland. Siamo chiusi in casa. Oh, buongiorno Cigo. Buongiorno. Allora, tu sei la prima chiamata ufficiale dalla radio. Hai sentito che se ti sei tagliati i capelli? Sei in onda, Cigo. Sei in onda. Penso che ti stiano ascoltando qualcosa come quattro persone. Mi senti bene, Cigo? Le saluto tutte e quattro innanzitutto. Saranno probabilmente Norberto e io e basta. Ci sono due persone che ti ascoltano. Ok. Il picco è stato di 5, ma al momento ci ascoltano in due. Cigo, dai. Allora adesso mi attacco anch'io. Non ci stavi ascoltando. In questo momento no. Adesso, ragazzi, ci mettiamo a chiamare tutta la rubrica finché non riusciamo ad ottenere almeno una quarantina di ascoltatori. Giusto. Va bene, Cigo, aspettati altre chiamate, perché d'ora in avanti avremo la nostra rubrica quotidiana di aggiornamenti da Assago Comunista Rossa e Indipendentista. Assago Comunista Rossa. Va bene. E quindi aspettati. Vedo di fare i reportage. Bravo, di cosa vedi dalla finestra? Va bene. Bravissimo. Dai. Fantastico. Bella Cigo. Bella Cigo. Dai, ciao. Ciao Cigo. Guglielmo, chi chiamiamo? Non lo so, in questo momento facciamo finire Fergibaldo, va? No, io ho già finito, ho già dato the conclusion of my point of view on queste arrivi di questi maledetti soldati americani. Brainless jarhead shits. poveracci, perché anche qua, di qualsiasi paese, maggiormente di loro di sicuro vengono dei slums degli Stati Uniti, in cui i maschi maschilisti sono trascinati di scegliere di questi mestiere, perché è l'unica via per fare un po' di soldini. Però spero che si svegliano, cioè spero che si svegliano, che c'è adesso, cioè in questo periodo, no? Anzi, dopo seconda guerra mondiale, si sono alzati proprio i veterani, che homeless, cioè gli homeless, gli Stati Uniti non sono mai stati Stati Uniti, ma neanche da noi, ovviamente siamo di colonia dell'America, è uguale. Becchi un homeless, ma un ex militare, un ex soldato. Cioè, proprio mi dispiace per loro. Poi, non so, il brutto di questo è che sono abbastanza ischilati per... Ma secondo te quante ore può andare avanti, Fergi? Abbiamo scoperto l'animo speaker di Fergi. Secondo me, Fergi, tu devi smetterla di dormire. Dormire di giorno. Di notte dovete iniziamo smettere un programma radiofonico di... notturno che dovete... proprio ti... Guarda, veramente. Dovete smettere di tirarmi in mezzo. Dall'una alle sei e mezza. Molatemi in montagna. Io dall'una alle sei e mezza creiamo dei podcast di 5 ore e mezza per 5 giorni su 7. E dopo un anno abbiamo risolto i problemi dell'umanità, secondo me. Dove lui parla. Aspetta, dato che parlo troppo, mi sono dimenticato. Cioè, vorrei condividere. Il, Lorenzo, questa cosa io l'ho visto un articolo. Il microfono è al limite. L'ho visto un articolo. Suicidio in tempi di coronavirus. Quindi stare a 3 metri con 4 mascherine, i paraocchi. Guglielmo, dove vai, Guglielmo? Ma io non so. È che ti sento vicinissimo. Quasi cioè, come se parlassimo allo stesso microfono. Quasi come se. Devo dire che, allora, siccome ovviamente. Io mi sono stufato di parlare di questo virus, però vabbè, ci sta, non so. Io volevo leggere un libro della B-Generation, infatti, che non c'entrava più un cazzo. No, non dico adesso in generale, però io da domani inizio a leggere questo libro perché ci siamo un po' così... tutti coglioni. Tanto, cos'è che hanno detto oggi? 14 giorni, e dopo 14 giorni, ma come. Pure. Ti do io internet. Fratemi. Allora. Praticamente io oggi quante righe sono? Io vorrei leggere proprio. Sono uscito e sono partito da via Teodosio, che è a Lambrate, in bicicletta, e ho fatto tutto il giro della circonvallazione per arrivare qua a Zano. E effettivamente, la cosa che ho riscontrato per quanti giorni andiamo avanti con questa storia, la cosa che ho riscontrato è l'ennesima consapevolezza che la gente non ha capito un cazzo, perché continuano, fanno un sacco di domande. Mi sono accorto che più in questi giorni, che da quando sono a Milano, la gente mi ferma per strada per farmi delle domande. Scusa ma tu per caso, tipo oggi al parco, io vado all'Ambro tutti i giorni con il mio cane. Hanno detto di limitare le uscite col cane. Col cazzo, il mio cane se limita le uscite. Poi parco, l'Ambro è bello grosso notte. Comunque. Sì, infatti è bello grosso. In questi giorni c'era ovviamente pieno come un uovo. E scrittavo lì quando ero oggi piccolo. Invece non c'era nessuno, perché l'allarmismo di ieri ha fatto sì che ovviamente un sacco di gente non riuscisse più a ragionare e si imponesse il divieto di uscire, senza chiedersi né perché né per come o con che tipo di modalità. Quindi è proprietario dei cani, è stato detto portate fuori il cane, limitate le uscite. Io ripeto, se limito le uscite al mio cane mi taglia la testa di notte mentre dormo, perché già sono sul filo del rasoio, perché ovviamente ho anche altre cose da fare, e però ho bisogno di sfogare, dobbiamo andare molto in giro. Quindi io al parco, così come se non ci fosse niente, a girovagare con Hank. Mi ferma una signora evidentemente preoccupatissima col cane al guinzaglio, dicendomi: ascolta, ma tu hai capito se noi possiamo girare o serve che io abbia l'autorizzazione in tasca? E gli ho detto no, i proprietari dei cani sono giustificati anche senza autorizzazione, hanno detto di limitare le uscite. Io sinceramente sì. Un'ora di giro me la devo fare comunque stamattina. Lei mi fa: ma no, io tanto io abito lì dietro. Aveva quel tono che cercava sicurezza, cercava di giustificarsi, perché sì, continuava a dirmi: no, ma guarda, ma, io veramente sono qua dietro, tanto non sarà niente di grave, perché io ti giuro abito qua dietro, guarda, casa mia è quella lì. Faccio: signora, vabbè, sinceramente, di dove abito? Non è che ti sta flirtando di in qualche maniera. Esatto. Abito lì. E quindi la stessa cosa mi sta capitando nel confronto con i commercianti, perché io già di mio non vado mai al supermercato, vado dal panettiere, vado dal fruttino, vado dalla drogheria, dalle altre cose, eccetera. E ultimamente in questi giorni mi hanno chiesto: ma tu sai se domani siamo aperti? Tipo l'altro ieri mi chiedevano: ma tu sai se domani siamo aperti? Faccio: sinceramente io, ma in giro com'è la situazione? Faccio: ma perché i commercianti si guardano tra di loro, perché non capendo effettivamente cosa fare, chi fa più cose uguali per loro è quello da fare, secondo me, come la maggior parte delle persone. Però ma circa quante, secondo te, quante anni ha la signora? La signora dei cani avrà avuto una quarantina d'anni. La quarantina. 40-45. Mentre invece i commercianti che mi hanno chiesto delle indicazioni per l'apertura sono una cinese. Comunque aveva che ha il baracchino di panini in via Feltre. L'ortolano di via Pordenone, che è un nuovo ortolano che ha aperto di recente. E chi è che me l'aveva chiesto anche? Boh, forse un panettiere in via Porpora. C'era qualcuno in via Porpora che me l'aveva chiesto. E quelle le sbatte di queste epidemie, cioè la pandemia ormai, possiamo dire, no? Sì. Ieri è stata ufficialmente definita pandemia perché è mondiale. Tutti i paesi sono coinvolti. Sì. Anche da comunque anche dei compagni nelle Filippine, cioè visto su chat. Sì. Ci sono proprio regione. Ma paese piccolo, mentre noi stiamo parlando nella chat che abbiamo indetto per il per il direttivo di questi momenti radiofonici particolari, è arrivato un messaggio appunto da Repubblica, da un nostro compagno, che iniziano a tirar fuori dei numeri molto più alti in questi giorni. Ma oggi è uscito un articolo con dei numeri che sono esageratamente più alti rispetto a quelli di ieri. Sì. Beh, immaginavo come fanno i barboni adesso. Infatti è quello che si stanno chiedendo molti e molte, esattamente. Sì, barboni come fanno? Perché il motto del stai a casa viene risposto automaticamente: e se una casa non ce l'hai, dove stai? Poi ho visto un paio cioè non è proprio di homeless, non so, io meglio utilizzare il termine barbone, che secondo me è meglio. Ci sono barboni che l'ho visto a Milano, che non sono barboni come da noi, magrissimi, super sporchi. Cioè, da qui si vede, però sono grossissimi come ipo. Cioè, mangiano come... senti proprio l'alcolismo addosso, puzzano. Cioè, è molto diverso dal nostro barbone, comunque. Cioè... mi sono entrato di questo discorso e era per capire i loro anticorpi. Cioè, l'anticorpi, secondo voi, l'anticorpi di questi barboni è un livello... Secondo voi, ce l'hanno l'antidoto? Highlander. Ha detto Gulli che sono dei Highlander. Questa, non so, diventeranno zombie nel futuro? Boh. Cioè, questi barboni qua. È incredibile. Secondo te? Sveva ha spezzato un momento proprio che andava spezzato. Sveva, vieni con noi. Vieni con noi. Che c'è? Cosa stai facendo giù, Sveva? Raccontaci. A debita distanza, grazie. Prego. Aspetta che ti lancio il microfono, dove sei? Aspetta, ferma lì. Buonasera a tutte e a tutti. Stavo sanitando, stavo rendendo igienizzato il bar. Non so se conoscete il nostro bar, si chiama Bar Dato, è molto famoso sui social. E lo stavamo igienizzando perché lo sappiamo, in questi tempi ci sono un po' di problemi e abbiamo questo corona che continua a persistere, ma noi ricordiamo, dobbiamo essere impegnati nel contrastarlo, e quindi niente, bisogna uccidere tutti i batteri, bisogna usare alcol e bere alcol, mi raccomando. È una delle poche soddisfazioni che ci può rimanere in mezzo alla mancanza totale di socialità. così, ci molli così, basta. Vabbè, dai, allora, comunque, ripetiamo quello che abbiamo ripetuto fino adesso. Noi adesso come spazio siamo chiusi al pubblico, ci stiamo occupando dei lavori di manutenzione. In questo caso Silvio ci stava raccontando del nostro bellissimo bar che oggi ha sistemato. Poi ho visto che a un certo punto c'era, perché noi ovviamente entriamo a scaglioni, uno massimo due per volta, con tutte le protezioni assolute. Stiamo semplicemente igienizzando il posto e trasmettendo radio e facendo tante altre cose. Poi a un certo punto ho visto che Pesce stava imbiancando l'aula studio, perché anche noi abbiamo una bellissima aula studio che avrà un colore pistacchio da quello che mi è arrivato. Non so. Confermi? Confermo, confermo, assolutamente sì. E Pesce si sta impegnando in questa missione e renderemo l'aula studio più favorevole mentalmente mentalmente per chi studia e vuole fare i propri progetti in tranquillità, alla luce, un posto appunto luminoso che favorisca l'attenzione. E quindi niente, Pesce si è isolata da sola in aula studio e sta semplicemente dipingendo le pareti e sta imbiancando le pareti dell'aula studio. Molti complimenti a Pesce, bravissima! Grande Pesce, grande Pesce. Grazie Sveva per il tuo contributo, è stato molto gentile. That up all people from the blistering cold. This is for soldiers and survivors, hustlers and the 9-to-5ers, those who know the sting of being raised without a father, for those who know the beauty that grows from pain, who knows the burn of hot tears that cleanse and stain. This is for those who feed their babies with the welfare check, but know that asking for some help don't mean forgoing respect. This is for your life and mine, reminders we shine, supplemental nourishment to help you ease your mind, cause the life is trife, the life in mine. Break you down before you see the light. So suckle with the soul, you were born to see them all. If you break it from the weight, here's some peace that you can ball. From now into the end, we're so controllers of a life. For all my people everywhere, just know I love you, right? Right. Stress and strife, nigga, say your breath. Cause out here, the way of life is the way of death. Left without the knowledge of self, you can't escape from walking dead. Hello. So all we know is yellow tape, chalk and lead, and talking heads. So busy stalking bread, we can't see the wool over our eyes and realize we ain't free. My people is destroyed for the lack of knowledge, but not the kind you find in public school or some cracker college. Let's turn back the mileage. Reveal this mystery of how we've been deprived by his story of our glorious history. That's why my sisters be hoeing and my brothers be killing, not knowing where they from or going. Just rolling with no feeling. chilling, gang banging, stealing, doing dope and dealing. So we gon' get you open singing, bringing hope and healing on all these negative things. We gotta rise above. This is the life, otherwise known as the love. It's the life, the life, the life, the life, the life, the life, the life, the life, the life, your life, my life, our life. It's just the life, the life, the life, the life, the life. Lose your life cause you started out winning. Swimming with a million sperm in the human race where the end is the beginning. Religion will have you believing you born into sinning. But if you know God like you know yourself, who is the kidding? Throwing salt in the game of life. You name your price from the time your head's off to the brain till you walk with a cane. My advice is to know your worth. Every day go to work. Hold up your people till your shoulders hurt or they put you in the dirt. Word. Roam the earth going through heaven and hell. Living for the brethren that fell and the others living dead in a cell. For the love, the bloods, the crips, who yelling cuz shit is bugged. To the club, to the thugs who sell. Selling drugs, sucking life out the ghetto. The night is run by the metal. The sun settle and get black like with the pot called the kettle. And the freaks come out on the corners. Play your position from the kitchen to the pimping. We on a mission, steady living this life. The life, the life, the life, the life, the life, the life, the life, the life. Your life, my life, our life. It's just the life. The life, the life, the life, the life, the life, the life, the life, the life. My life, your life. Folks is asking, is my life complicated? Folks is asking, is my life complicated? Buonasera. 20 e 14 del 12 marzo. Siamo al quarto? Terzo giorno di quarantena pronunciata in tutta Italia. Terzo. Con delle restrizioni. Terzo giorno in Italia, forse qualcosa di più a Milano, tipo 5 giorni. E niente, stavamo notando io e Lorenzo che è tutto bellissimo, è tutto fantasticissimo. Oggi nel centro sociale, rispettando accuratamente le distanze di sicurezza, abbiamo pulito, abbiamo messo a nuovo la radio, l'aula studio, tanto c'è ancora di là qualcuna che pulisce e imbianca. C'è qualcuno che sta pensando alla cena. Però tu Lorenzo, cosa mangi a cena? Io cosa mangio a cena? Io devo capire se tornare da Hank o mangiare un boccone e poi tornare da Hank. Penso che la seconda ipotesi sia quella. Ci prenderemo una pizza, Guglielmo. Tu sei comunque uno schifoso perché mi hai fatto finta di darmi internet sul computer ma non funziona. Come no? Sei una pessima persona. Comunque Lorenzo, mi spiace ma evidentemente siamo già caduti molto in basso a livello di ascolti e di interesse, perché non ci guarda più nessuno. Questo non ci fermerà mai, anche perché stiamo registrando. Ah, siamo scesi a 1. No, ma veramente? Da 2 a 1. Abbiamo perso persone. E questo, il brutto vizio di questa cosa è che controlliamo effettivamente gli ascolti. Almeno io non lo faccio mai, perché per me è un atto performativo fine a se stesso, però poi lanciato nell'etere. Quindi in realtà è come se tutto il mondo stesse ascoltando, ma anche no. Infatti poi alla fine ce n'è uno. Esatto, mi sa che dobbiamo salutare l'unica nostra ascoltatrice in questo momento, che è Alia, che ci ascolta in un territorio compreso tra Novara e Baggio. Ciao Alia. Osteria. No. No, è che lei studia in ospedale, fa medicina e ci sta raccontando qualcosa riguardo, ovviamente, purtroppo per noi, per tutti e tutte, sta parlando di coronavirus. Ciao. Attenzione, pesce. È entrato un fantasma in radio, sempre rispettando le distanze di sicurezza. Vuoi dire qualcosa al microfono? Non rispetta le distanze di sicurezza. Ciao, sono un fantasma e vi sto provando che la vita continua anche dopo la morte, ma in forme esoteriche, sataniste e coronavirus. Grazie per il tuo contributo, pesce. Grazie per averci infettato tutti. Grazie, pesce. Non abbiamo capito. È stato un intervento di pesce qui stasera. Però c'è stato. Siamo alla disperata ricerca di qualche tipo di interazione. Dateci la prova che ci siete. Esatto, che non siamo solo nobbies a parlare. Forse ci sono anche dei colleghi dall'unità mobile di Comunità Nuova che ci ascoltano. Vedo che ci commentavano, ma succedeva questo un quarto d'ora fa, quindi in realtà probabilmente non ci ascoltano più. No, esatto. Porco cane. E vabbè, niente, ci avvisano che alcuni medici si stanno infettando perché non ci sono abbastanza condizioni, non ci sono abbastanza materiali e condizioni idonee per lavorare in sicurezza. Questo è tutto bellissimo e fa il paio con quello che si diceva prima rispetto all'operazione Defender Europe, che mentre arrivano 30.000 soldati americani, invece i medici non hanno le mascherine. Così accade, mentre invece la città inizia a dormire, perché io oggi, ripeto, ho fatto lambrate a Bietegrasso e sono quasi tutti e tutte a casa. E poi, tra l'altro, questa cosa mi fa venire in mente una riflessione: quando di giorno magari ti capita di alzare lo sguardo su un palazzo e vedi che tutte le persiane sono chiuse, cioè saranno tutti quanti fuori. Adesso che sono tutti in casa, avranno tutti quanti le persiane aperte? Iniziamo a guardarci intorno. Io questa è una cosa che non smetto mai di dire, perché è un momento molto particolare. E vorrei iniziare anche una questione che mi è capitata, volevo sottoporla a Guglielmo. Non farlo Lorenzo, non farlo. No, beh, è interessante perché io di professione faccio video, ok? Professione, esatto, sì. Infatti una di quelle che sta affondando a picco insieme a molte altre. Quella roba lì. Sta colando a picca. Dobbiamo mettere le risate finte e anche la trombetta. Finché quel contatore non arriva a zero io sarò orrendo e pessimo nel mio discorrere. Or dunque, in questo momento qua è un momento molto particolare. Ciao pesce. Abbiamo qui con noi una muratora. Se si entra in radio si parla. E sta imbiancando. È la nuova regola da oggi. Grandissima. Lei imbianca alle 20:19. Unstoppable la chiamavano. Siamo sempre con le debite distanze. Infatti sta imbiancando la parte finale della stanza della radio, che sono più o meno 300 metri quadri. Quindi a malapena la vediamo. Quindi sto ricevendo un sacco di messaggi. Sto leggendo un sacco di occasioni. E sto vedendo che ci sono fior fior di persone che fanno il mio stesso mestiere, che si stanno organizzando in qualche modo, anche vuoi con uno stile hitchcockiano della finestra sul cortile, filmare la situazione, eccetera. E mi sono ricordato delle lezioni di critica cinematografica, non di pianoforte come mi suggerisce Pesce da lontano, in codardia senza microfono. Esatto. Esatto. Codarda. Sei una codarda. Mi sono ricordato le lezioni del mio professore in accademia, Luca Mosso, che ha definito due tipi di documentaristi. In una situazione in cui una persona sta affogando in un lago, il primo documentarista molla la videocamera e va a salvarla, il secondo filma la scena. Ecco, mi sono fatto un sacco di domande su di me. In un momento del genere sto ignorando palesemente tutti i messaggi dei miei colleghi, amici, conoscenti, nemici, che mi propongono di uscire e battagliare con la videocamera per portare solidarietà in un quartiere. Io non riesco in questo momento a... No, sono meravigliosa. Non riesco, è un limite, perché poi potrebbe essere un film bellissimo. Tutti i documentari sono nati, tra virgolette, sul fronte. Se pensiamo anche ai bellissimi documentari che i nostri amici, compagni e compagne nel Medio Oriente ci regalano per comprendere meglio quali sono le condizioni di culture che noi... Sì, ma parla più piano però. Che noi amiamo e rispettiamo. È onorevole il lavoro che fanno ed è quello che io ho sempre desiderato di fare anche. Però in un momento in cui mi ritrovo, tra virgolette, un'emergenza in casa, mi ritrovo a scegliere l'altra parte, quindi di rimanere più con le mani a fare cose piuttosto che tenere la videocamera in mano. Sei una persona autentica. E sei, un, sei umano. Sono, sei umano. Sei umano, loro sono un po' più tipo capitale. Okay. Tu sei molto più umano. Un po' più tipo produzione. Un po' più tipo guadagno. Ma potresti fare questa bella cosa, potresti domani, tipo, sì, dato che oggi abbiamo lavorato molto, domani esce con la telecamera, fai un colossal, vinci tutto, al discorso di premiazione dell'Oscar, dici, ringrazi la zona autonoma Milano, prendi un sacco di soldi, torni qua, compri Zame e poi facciamo la rivoluzione sui carri armati. Ma se questo fruscio in sottofondo, al fondo di questo enorme salone, è ancora il nostro magnifico operaio a pesce, sta imbiancando. Vorrebbe lavarsi dice che vorrebbe lavarsi i capelli. Scusa Pesce, ma non mi uccidere però. Ah, Guglielmo, la password. Dica. Del mio wifi è interzone con la I maiuscola. Ho capito. Figato. Quindi, tutte le persone che ci hanno ascoltato, cioè una. Alia, adesso sai anche tu, l'hotspot di Lorenzo. Alia, se sei con noi, mandami un messaggio in qualche maniera. Lo so che hai avuto una giornata molto faticosa. Tu, a differenza nostra, hai lavorato davvero. Dici come stai. Attenzione, è entrata un'altra presenza importante oggi alla radio. Finalmente, non ci credo, è la prima volta. Non trovava la porta? Sì, è la prima volta. Nel microfono, magari? Devi proprio scambiarti dei germi con Lorenzo. Ma così. Sembra di limonarsi. Ok, va bene. Puoi fare degli altri gesti, ma io e Lorenzo ci giriamo dall'altra parte, se vuoi. Buonasera a tutti e a tutte. Oddio! Yeah! Impennate gli ascolti. La Jordi DJ. No, Jordi DJ. Forza Jordi, raccontaci un po' come va la vita ai tempi del coronavirus. È un po' noiosa. Ma sbaglio, c'è un fantastico rientro dell'aspirapolvere nel microfono? No. It's impossible. Questo fischio che si sente. Io volevo fumare una sigaretta, però no. Esatto. No, niente, è abbastanza noioso. Quindi come affrontiamo noi la noia? Pulendo e igienizzando. Ma cazzo! Passo i germi, cazzo! Minchia? Attenzione, complimenti. Quindi fondamentalmente ripetiamo, lo spazio è stato chiuso al pubblico, abbiamo interrotto tutte le attività per l'emergenza, che vogliamo chiamarla così però a quanto pare, e abbiamo deciso di igienizzare e rendere il posto più agibile in base anche a tutte quelle che sono state le varie regole da tenere. Infatti ripeto, io e Jordi adesso siamo a distanza di 4 metri, non 3, 4 metri. Ma sono anche 7-8. Insomma, la stanza della radio è enorme, venite a visitarla quando sarà più possibile. Se, e se Jordi, come tanti sta facendo dei lavori a Zam, quindi sta mettendo a posto e tutto. Tanti e tanti, in realtà pochi, cioè pochissimi. A scaglioni, tanti e tanti a scaglioni. Non ci si incrocia mai in più persone. La cosa bella è che è stata la prima volta ai microfoni di Radio ZM, Jordi, quindi grazie. Sei stata la prima volta che ti... State la prima volta al microfono. Puoi fumare qua. Fantastico. Così, vedere un po' com'era andata qua. Bene, quindi c'è un po' un cioè in giro si sta vociferando di una serie di sono uno scaglione, sì, è vero, ci dicono dalla regia. Questa radio è veramente come un porto di mare. Chiunque apre quella porta aperto, è aperto. Esatto, è un, non so, sembra di stare al circo. Si sta iniziando un po' a delineare quello che potrebbe essere un elenco molto, molto cool di cose positive che sono state, diciamo, che fuoriescono da questa emergenza coronavirus. Secondo me è una delle cose positive. Questa radio ha preso un po' più di gente, nonostante poi gli ascolti siano sempre... Sì, esatto, siamo più gente a parlare che gente ad ascoltare, ma va bene, è inutile che rifresci così, cioè, di una tristezza sta cosa. Vai, comunque... tu, persona da sola, allora, no. Sono la sola persona che ci ascolta e quindi... Ce l'abbiamo in contatto? Ciao, Alia. Ce l'abbiamo in contatto, qui che ci parla, ciao, ci scrive? Manchi, scusa, comunque vorrei informarti che si può fare la permanente... con la vernice bianca. Se vuoi provaci. Si può fare la permanente con la vernice bianca. Grazie all'operaia, grazie mille. Grazie mille. Puoi andare avanti a fare quello che stai facendo. Però una volta quelli che ti venivano a fare i lavori in casa non erano così invadenti, Non ti parlavano alla radio. Venivano, facevano il loro lavoro e se ne andavano. Che noia, che tristezza. Pensa adesso che bello. Veramente. Ah, è un lavoro di cura non retribuito. Potremmo parlare di questo pesce tipo domani o dopodomani, quando hai voglia di fare due chiacchiere in radio con noi. Invece no, parleremo di questo per sempre. Pandemia forever. Forever, grazie. Forever pandemia. Ma che pandemia? Io parlo di lavori di cura non retribuiti. Ah, però okay. Ovviamente non essendo va bene, niente, non commenterò di che sesso siete voi, perché non sono misandrica, però vorrei dire che siete leggermente privilegiati a non avere avuto questa educazione di sparecchiare per forza e pulire i piatti. Ciao, grazie. No, però pesce, la questione è che se tu stai imbiancando, imbiancare non è un lavoro di cura. Quindi adesso tu non stai facendo un lavoro di cura. Ma io voglio bene ai muri. Va bene. Ah, questo è un altro discorso. Se tu ti prendi cura dei muri, è un'altra cosa. Stai attenta perché potresti, in questo periodo potresti prenderti delle brutte cose. Ma i muri sono i miei figli. Allora, però ti decidi, o siedi, o ti siedi e parli con noi, o vai più, perché allora, insomma. Va bene, io vorrei fare finta che questa trasmissione avesse ancora un senso. Ragazzi, sono in quarantena. Sono in quarantena nella mia stanza, ogni tanto mi affaccio, spero che qualcuno mi guardi, parlo ormai da solo. Dobbiamo fare qualcosa, Guglielmo, dobbiamo fare qualcosa per questo mondo. Andiamo a salvare Giulione. No, raga, tra tipo domani o dopodomani vado in missione spesa per la zia che è lì in zona e quindi... Avremo un Giulione a Zam? Sì, devo... Sì, passo sicuro. Non starò tantissimo e tra l'altro mia zia la vedrò di striscio. Perché lei, poverina, tra l'altro veramente è malata di cuore e ha 70 e passa anni e già... E lavorava in fabrica e l'hanno siliziata e l'hanno picchiata. Aveva una scimmietta che è morta. No. Non è come Remy. No, si è fatta mille viaggi in giro per il mondo, in Sud America in particolare. Sei, no, se l'è sempre vissuta molto. Era un po' una fricchettona, da quello che ho capito. Hai capito? Sì. Beh, ma ancora viva, però. Non è che era perché non c'è più. Sì. No, beh, mi è cambiata una cifra. Beh, certo. Cioè, adesso c'ha 75 anni, fino a 5 anni fa si arrampicava sugli olivi, tirava giù le olive, faceva, disfava, poi si è spaccato un femore. E poi secondo me lei saltava i fossi per il lungo. Diciamolo. No, quello no. No, quello non lo facevo. Mi diceva sempre, Giulio, mi raccomando, una cazzata, i fossi per il lungo mai. Beh, no, ma voi siete veramente in radio? Siamo veramente super distanti, Giulio. Ovviamente abbiamo tutte le misure di sicurezza, non ti preoccupare. Praticamente c'è la stessa distanza tra me, te e tra me e Lorenzo. C'è la stessa Bonolis. Distanza, uguale. Sei con Paolo Bonolis. Ma chi è Bonolis? Chi è Bonolis? No, è Lore, scusa. Paolo Giulio, ascolta, ragazzi, senti. Che freddo che è sceso tutto. Alza il culo e vieni in radio immediatamente. Pensa che è entrata pure Jordi. Esatto. La Jordi ha parlato in radio prima di te, Giulio. Da paura. Da vergogna. Ha salutato a calcio, un po' una vergogna. E ha parlato molto bene, Sì, sì. Tutte le cose intelligenti. Ha fatto una dissertazio sulla differenza tra emergenza ed epidemia. Abbiamo ancora qualche problema con Pesce. Oddio. Però ci stiamo lavorando. Esatto. Arriverà anche lei. Ma comunque, Giulio, veramente... Me la sono persa. No, mi sono perso la dissertazione. Non va bene, dovete stare sempre collegati a Radio ZM quando siete a casa, anche se non cioè, anche se non proprio non le date proprio attenzione. Se no poi a me a Lorenzo viene proprio in mente che siamo solo noi due che parliamo da soli in una stanza e potrebbe essere deprimente. Pensa Guglielmo, quando avremo 80 anni rideremo un sacco di questa scena. E nessuno ci ascolterà ancora in radio, comunque. Dai, ci sta, va bene, ma in tutto ciò, voi zero sbatti, zero paranoie, siete tranquilli, easy, tutto quanto? A parte il fatto che sembra che sei qua dietro la porta, c'è qualcuno che parla qui dietro, sembra che stai facendo lo scherzone, stai per entrare, ma caramba che sorpresa, non c'è Giulio dietro la porta. Ma, allora, noi zero paranoie, perché tanto qui a Zam siamo in pochi, e abbiamo tutti quanti una distanza di sicurezza di tipo 8 metri l'uno dall'altro. Adesso anch'io, Lorenzo, siamo uno nell'angolo, uno dall'altro. Chiaro. Poi devi contare che io oggi mi sono svegliato effettivamente con qualche domanda in più, perché vabbè, tutto il circo mediatico che c'è dietro, poi due domande in più delle fai. Però poi è anche interessante, secondo me, non lo sto consigliando, però è anche interessante rendersi conto effettivamente di come cambia la città. Quindi mi sono goduto molto il viaggio in bicicletta da Lambrate a Zam, ed effettivamente ci sono un po' di gente in giro, c'è. Molti si fanno delle domande perché non si rendono conto effettivamente ancora di cosa sta succedendo. Posso dire che invece da casa mia qua in bicicletta non mi sono voluto viaggio perché sudavo? Posso dire questa cosa? Sono arrivato sudato qua. Perché fa caldo? No, perché sono arrivato sudato. Ah, ok, sono okay, sudato, okay. Questa cosa mi dà molto fastidio. Già la prima maglietta te la devi cambiare alle 9:30 del mattino, ma io dico... C'è il sangue caliente, Guli. Sì, esatto. Facciamo un corso di samba, di salsa, così... Salsa di pomodoro, intendi? Abbiamo subito col botto, sì, di salsa di pomodoro. Anche quello ci starebbe. Giulio, mi raccomando, facci avere le tue notizie, chiamaci, No, ragazzi, io, cioè, mi sono preso male quando ho iniziato a beccare l'altro giorno, miei amici imparanoiati, cioè, tipo Pape l'ho beccato, abbiamo fatto un giro così rapido. Scusami, Giulio, spiega a tutti i nostri ascoltatori cos'è Pape. Cioè, tu dici, ho beccato Pape, ma è come dire, no, cioè, un personaggio famoso, illuminaci. Ho beccato Antonio, cioè un nome. Antonio. Ok. Di qua di là, poi ho detto Pape, l'ho introdotta come cosa. Neuroni. Va bene. Era comprensibile. Grazie. Prego. Tutti i nostri ascoltatori, che in questo momento sono zero... Cioè, praticamente non risulta che nemmeno tu ci stai ascoltando, che parli con noi. Però ci stai ascoltando in realtà. No, ma in effetti non sono connesso adesso, è vero? Bravo. Fallo così senti la tua voce. Non posso connettermi adesso dal cellulare se sto parlando. No, penso che finiresti in un'altra dimensione. Esatto. Vieresti un Larson che ci farebbe esplodere le orecchie a tutti quanti. Però se mi date degli orari più o meno, cioè voi verso sera tendenzialmente... Ascolta, abbiamo l'ufficio staff. Cretino, abbiamo scritto tutto tanto di mail, report, tutto il resto per dirci quando siamo in radio e tu adesso ci vieni a dire se mi date degli orari. Tecnicamente lo sforzo che il collettivo sta facendo, Giulio, è quello di stare on air 8 ore al giorno. Anche tramite te, cioè questo sforzo lo facciamo anche tramite te. Visto che se tu ci vuoi registrare delle robe, mandaci delle robe, te che leggi poesie, te che stai zitto. Te che stai zitto, successo assicurato. Con della musica di sottofondo, poi... Perché non succede mai una cosa rara e giustamente la gente... Però sì, stiamo fondamentalmente... Ok. Ragazzi, io francamente... Bene, fischio. Non penso... No, però l'idea di leggere o... Cioè, non sono abituato alla cosa teatrale. Cioè, se lo faccio... Sul momento riesco, ma l'idea di registrare qualcosa e a posteriori far sentire quello che ho detto, così colà, non mi piglia troppo. Niente, Guglielmo, abbiamo chiesto la persona sbagliata. Pisciati malissimo, due di picche. Però io direi una cosa, potremmo ipotizzare... No, scusate, ma è proprio un limite psicologico. Ma Giulio, ma ti vogliamo bene lo stesso. Io no. Mi piglia meglio fare una chiacchierata così, on air proprio... Piuttosto che ti richiamiamo. Quindi dopo Cigo opinionista da Assago comunista, abbiamo Giulione polemica from Corsico. Avremo l'angolo di Giulio. No. Dai, come no? Almeno ci chiamate invitato così a caso volentieri. Sì, tanto. Va bene, ti chiamiamo quando sei successo, dai. Quando sei successo ti chiamiamo. Ma facci uno squillo, quando senti lo stimolo. Vedo un attimo, allora, una cosa sarebbe figo recuperare una bicicletta, perché non c'ho bici e questa cosa è parecchio sbatti. cioè più che altro spostarmi su lunghi percorsi in auto se sono fuori dal comune. Ti sparano con un lanciarazzi, Giulio? Ti tirano giù come se fossi una Apache durante la guerra? No, semplicemente mi fermano. E se devo pensare due settimane di essere fermato in continuazione, siccome le strade non sono molte per venire da quella parte, vedi tu. Carabinieri, poliziotti saranno più o meno sempre quelli. Alla prima ciao, alla seconda ciao, alla terza ti denuncia. Far West. Sì, una cosa che abbiamo anche di cui abbiamo discusso oggi con i miei coinquilini è stata proprio la percezione che si ha della, tra virgolette, senza virgolette, magari repressione che stiamo subendo in questi giorni. Dalle metropoli a magari le frazioni o i paesini o le periferie, eccetera. Mi rendo conto che effettivamente in una giungla come Lambrate potrebbe essere non applicabile il discorso che hai appena fatto di incappare nello stesso e ogni volta nello stesso blocco. Tant'è che ho fatto Lambrate e ZAM, non ho incontrato niente di blocchi, nessun tipo di restrizioni. Voi secondo me non avete capito, cioè nel senso a Buccinasco oggi c'erano le pattuglie della polizia locale che passavano per i quartieri con gli altoparlanti con ad annunciare il prossimo concerto dei Blues Brothers. Sì, ad annunciare il state a casa, non uscite, state a casa, non uscite. Sembrava una roba da Cina proprio. Anche qua sotto casa mia passa ogni tot la polizia locale che ferma la gente. Che rinfresca un po' la nozione di stare a casa. Va bene, allora ti ringraziamo Giulio. Ti chiediamo l'ultimo dal terzo Reich di Corsico. Grazie, ci vediamo l'ultimo contributo, senza ansia, senza prestazione. Consigliaci una canzone da mandare in radio. Vai. Così è proprio. Una canzone che ti piace. Ti piacerà una canzone? Un classicone dei Red Hot, dai. Vai. Lascia a voi, un classicone dei Red Hot. Faccio io? Anche... Sì, vai, fai te, stupiscimi. Allora, gli ha detto di stupirlo. Non troppo classicone. Non troppo classicone. Quindi cerca delle canzoni su Mix, funziona sì, così. Sì, l'abbiamo trovato, scusa. Ma fa culo, va. È vero, sì. Scusa, perché io ieri stavo impazzendo a cercare una canzone su Mix e non vaffanculo. Va bene, grazie Giulio, ciao. Sì, comunque, i vostri dialoghi super intelligibili. Fantastico, vi ascolterò e... Beh, guarda grazie, che abbiamo fatto delle belle chiacchierate. Abbiamo conquistato un ascoltatore, ragazzi, dai. Bello. Continuiamo con la rubrica, via. Continuiamo a chiamare la gente al telefono. Ci becca tra oggi e domani. Dai. I Red Hot per te, bello. Giulio. Bella Giulione, bello, ragazzi, ascolta, attaccati subito bello. Che senti i Red Hot per te. Ciao. Beh, comunque io continuerei con le telefonate, onestamente. A questo sì, punto anche perché la prima, cioè Giulio, sinceramente, mamma dai, mia, c'hai spento malissimo, Madonna. È stato tristissimo. Chi chiamiamo? Chiamiamo, secondo me, a questo punto, facciamo un po' chiamiamo tutta la gente che sta nell'Interland, vediamo come se la cava l'Interland milanese. Quindi, prossimo compagno o compagna da chiamare in questo fantastico elenco, ce l'abbiamo subito pronta, se non la trovo qui, la trovo di là. La carissima Silvia Lamoglia. Prepariamoci a un sacco di imbarazzo, compagni e compagne. Mica poveracce, tutti chiamando perché non ci ascoltano. Sì, sì, sì. E chiediamo a tutti una canzone. Ciao Silvia. Dove siete? Chi siete? Cara mia, dove siamo? Chi siamo? Siamo Guglielmo Lorenzo, live in diretta dalla radio di ZAM. Grandi, adesso ci colleghiamo. Come adesso ci colleghiamo? Scusa, non ci stavate ascoltando già? Ma raga, scenari apocalittici, io sto male. Cosa vuol dire? Vai, dici. No. Lunga. Si infila lontani con le mascherine, si facevano... Ma va. Cioè, proprio devasto. Ma stai male, cioè... Io infatti rischio di somatizzarla troppo. No, ti prego non somatizzare che poi sembra una roba brutta. Esatto, Silvia, no, dai. Ma vabbè, quindi ascolta, noi abbiamo appena sentito della brutta gente, gente tipo Cigo, tipo Giulione, quindi stiamo cercando di chiamare un compagno, una compagna per ogni paesino dell'Interland milanese. Raccontaci com'è Bucci oggi. Ma Bucci oggi non so, perché io sono scappata da Bucci in barba, i controlli e tutto. Cioè, sono scappata e sono venuta qua da Dario in corvetto. Quest'ora non ascolti, quest'ora non ascolti. Cosa? Sotto casa di Dario oggi c'era un posto di blocco che è perfetto. Per controllare lui che tornava da opera, probabilmente. Per controllare lui. Solo per Daccio. No, perché lui tra l'altro continua a lavorare. Quindi, quanto sfruttamento in una casa sola, quanta miseria, sembra 1909, guarda. Esatto. Ma questa cosa è tutta in diretta. Tutta in diretta? Tutta in diretta. Ti stanno ascoltando tutti quelli che ci stanno ascoltando, ti sentono e sentono ogni respiro. Madonna, oh mio Dio. Ma dai che sei con i tuoi compagni, tranquilla, non c'è nessun pericolo. Va benissimo così, anche se... Cosa? Sono contenta di sentirvi, è grande che... Guarda, stavamo giusto pensando, Silvia, se questa cosa poteva prendere piede e potevamo continuare con queste corrispondenze telefoniche dai vari quartieri. Ci sta, assolutamente. Questo è lo spirito che ci vuole, grande, quindi manda un messaggio a Giulio grande. E digli ripigliati. Però per favore. Non da Bucci, ma da Corvetto. Va bene, non tu ci problema. Fai cronaca di Corvetto, allora abbiamo... Senti come funzionano le cose. Allora, cosa funziona? Cioè, la corrispondenza quotidiana. Una news, se la volete. Attenzione, una news. Attenzione, fermi tutti. La prima news di Radio ZAM. Oh mio Dio. Vai. Noi e Dario siamo andati a fare la spesa poco tempo fa. Sì. Per andare verso l'Estelunga siamo passati di fianco a... Non si dicono i marchi, è vero, vabbè. Scusate, vabbè, per andare al supermercato siamo passati davanti a cos'è Piazza San Gilberto, dove il comune ha costruito tutti i tavoli da ping pong fissi e la gente ci va a giocare. E c'erano due tipi che stavano facendo i cazzi loro e stavano giocando, e c'erano due volanti della locale ferme là in mezzo alla strada, tra l'altro in mezzo al cazzo in una maniera allucinante, che gli hanno fatto la multa. Questi due avevano due fogli in mano e stavano discutendo, ma chill, nel senso di dire, ma noi siamo qua a giocare a ping pong. Tra l'altro, cioè, il tavolo da ping pong ci distanzia abbastanza, quindi sì, abbastanza, uno sport che non c'è contatto tra le persone. La pallina era in realtà un'enorme palla di virus, di coronavirus. Esatto. È una palla di virus. Questa è la prima news da Corvetto. Scusami Silvia, scusami, ti devo interrompere perché qui in radio con noi c'è un idiota che continua a far partire l'audio del telefono. E anche se questa stanza è molto grande, abbiamo delle grandi misure di sicurezza. Noi lo vediamo. Dei metri, lo sentiamo soprattutto. Idiota, smettila di far partire la musica del telefono. Prego Silvia, dici pure. Ma quale musica del telefono? No, non ti preoccupare. Out. E no, quindi niente, questa è la prima news di oggi. Multe a due giocatori di ping pong in piazza. Allora, Silvia agguerritissima. Silvia si propone per fare le cronache dal corvetto. Super sì. Mega carica alla risposta. Ci racconta già un fatto di quotidianità. Cioè, basta. Cioè, basta, hai proprio doppiato i tuoi compagni Cigo e Giulio in una maniera proprio, cioè, a mani basse e occhi chiusi. Sai cosa ti dico, Lorenzo? Io vorrei riscoprire un'espressione che utilizzavamo alle scuole elementari. Silvia, gli hai bagnato il naso. Gli hai bagnato il naso. Complimenti. Grazie, Silvia. Gli hai proprio bagnato il naso. Dici così. Gli hai bagnato il naso. Il vero miracolo. Non c'è niente di interessante. Come? Io non li ho sentiti, non ero connessa. Ma erano due idioti. Cico, guarda, ci ha messo 10 minuti per rispondere che non trovava il telefono tra i cuscini del divano. E Giulio ci ha tirato una pezza impossibile su l'etimologia romanza, no, la filologia romanza e le storie di Orlando Furioso. Cioè, una noia mortale. Mentre si stava per mettere a piangere. Guarda, lascia perdere. Comunque io non vorrei essere forse eccessivamente sospettoso, non farmi gli affari miei, ma io in questa fuitina da Bucinasco per andare in corvetto vedo una quarantena un po' piccante. Saranno tipo 9 settimane e mezzo, una roba un po' così. Guarda, sai perché parliamo in questi termini? Perché ci siamo resi conto che qua mi sa che fra un po' non ci fanno più. Esatto, ma più che altro Silvia, tu continui a parlare mentre noi parliamo, questo è encomiabile perché rappresenta la tua voglia di esprimerti, però non si capisce una mazza, quindi ridici quello che stavi dicendo. Ma io in realtà stavo parlando con Dario. Ah, ok, quindi non ci stavi più cagando, beh grazie, ringraziamo chi ha l'ascolto, perché non ci ascolta in realtà, nemmeno Silvia, quando lo chiamiamo al telefono. Silvia, sai quale sarà il vero miracolo? In questo momento essere in radio. Cosa? Non ero pronta in questo momento a essere. Ma no, ma noi ci piace buona la prima, non ti preoccupare, è stato perfetto. Il vero miracolo sarà quando riusciremo a parlare con Dario. Attenzione! Dario, ci senti? Dario? Dario? Dario, dove sei? Digli di tenere la voce alta perché i microfoni dei telefoni sono bassi. Pronto. Ciao! Dario Dotti con noi in radio, signori. Madonna, che emozione. Ciao Dario, sei online, sei connesso, ti sentono tutto. Ragazzi, c'è una sommossa popolare. A Zam si sta ribaltando tutto perché c'è Dario in radio. Facciamolo parlare. Ciao Dario, come stai? Sto bene. Bravo! Mio Dio. Io continuo a lavorare invece. Raccontaci di com'è la situazione. Come, bravo, io voglio starmene a casa. Perché è a casa che non si prende il virus, giusto? Giusto? Giusto. Dici com'è il lavoro, Dario, due parole, dai. Lavoro. Si sta male, sono a contatto con le persone. Cerco di mantenere le distanze. Anche perché la maggior parte sono poliziotti. Bravo. Hanno un virus che non va via nemmeno dopo l'epidemia loro, vero? Appunto. Il blu. E niente. È così. Ma quindi, cioè, nel senso, diciamoci la verità, avete iniziato a convivere adesso in tempi di coronavirus. Siete un po' tipo, non so, Romeo e Giulietta, è una fuga d'amore. Può essere un test, una prova. Attenzione, che voce che arriva da fuori. Mamma mia, Dario, che impegno. Vabbè, Lorenzo, andiamo. Ciao ragazzi, ci chiamiamo di là. Ragazzi, lasciamo la vostra privacy. Grazie per la telefonata. Ciao, è stato bello. Siete nell'elenco delle persone da chiamare giornalmente per la cronaca dei quartieri. Chiamateci, raga. Sarà fatto. Assolutamente. Dai. Buona serata. Se non vi mettete ad ascoltare, vi vediamo perché vediamo che gli ascoltatori passano da zero a rimangono zero. Quindi ascoltateci. Connettetevi e vi chiediamo anche una cosa: scegliete una canzone da mandare in radio. Vai. Cazzo, qualsiasi. Vai, Silvia, che ce l'hai una canzoncina. Cosa? I Rage Against the Machine. Vai, ce l'hai. Anche perché abbiamo scoperto. Però lo voglio sentire, non mandatela ora. Va bene, dai, aspettiamo qualche minuto e poi te la mandiamo. Ok, bravi, esatto. È tornata pure Jordi. Oh, madonna, mio Dio, Jordi radio in un momento solo. Ci è arrivato un messaggio dalla nostra compagna Marti che vi leggeremo fra poco. Grazie Marti. Comunque allora il contatore è fake. Cioè dovrebbe esserci Giulione che ci sta ascoltando. Ah, va bene così. Allora ci ascoltano in centinaia di migliaia di persone. Siamo tantissimi. Io ascolti di Radio 105. Infatti ci stiamo tramutando un po' nello Zodi 105, mi sa, con tutte queste chiamate. Ma va bene lo stesso. Ho carta bianca sulla canzone dei Rage. Ma sì, dai. Insomma. Oh, attenzione, c'è anche una nota da giardino che ci sta ascoltando. Ma secondo e la sua Silvia, io vado, compagna Rachele. Andiamo con Regge Castelli Macedo. A questo punto magari lasciamo andare la canzone, noi stiamo zitti un pochino. Dai, dopo i messaggi dalla compagna Marti che vi leggeremo in diretta. Ale. Non tagliamo i Rage, ma lasciamo sfumare delicatamente e chiamiamo Guglielmo. Attenzione, adesso andiamo dritti dritti al centro. Ci siamo stufati della... Cos'è? Ah, ok. Arrivano Stini. Messaggi intanto. Va bene, allora a questo punto niente, c'è la chiamata assolutamente e assolutamente. Dobbiamo andare a chiamare proprio lei. E lei che solo abita in centro, fa oh compagnia... mio Dio. Fa compagnia un nano da giardino. Oh mio Dio. Poverina. E adesso noi la aiuteremo, perché Radio ZM è anche e soprattutto aiuto a casa, servizio pubblico per tutti e tutte e tutti. Stiamo arrivando per te, Rachele. Ci siamo. Buonasera. Madonna, che c'è quelli con una risata. Ma possibile? E allora? Come ride la... ancora? Sto ridendo, muore dalle risate adesso. Cosa? Di qualcosa, Rachele. Ciao Rachele, sei in diretta su Radio ZM. Ciao Rachele. Abbiamo fatto una passeggiata. Non abbiamo capito perché c'è una musica molto alta. No, dico, siamo andati in giro a fare due passi e c'è un bel po' di sbirraglia in giro. Figa, siete proprio degli anarchici. Voi alla facciaccia di qualsiasi regola andate in giro e affrontate la sbirraglia. Avete cantato il Galeone? La canzone del Galeone l'avete cantata? Certamente. Sono passati esattamente di fianco a noi, scrutandoci mentre eravamo rigorosamente però davanti a una farmacia, quindi non la si può. Cioè, comunque dei geni del male, eravate perfettamente davanti alla farmacia apposta per non farvi beccare. Esattamente, certo. Ascolta, allora, a questo punto noi faremo un brainstorming con anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché tu giustamente mi chiedevi che ti servono idee come educatrice online, come educatrice al telelavoro. Bene, allora tutti quanti insieme ora ti daremo idee su come fare l'educatrice così, via web. Esatto. Dai ragazzi, forza, troviamo delle idee. Allora, secondo me cosa poi posso fare con dei bambini autistici e non a distanza? Beh, allora, via telefono o via WhatsApp o via Skype. Allora, secondo me sicuramente è facile. Cioè, ce la possiamo fare, iniziamo da qui. Punto primo. Punto secondo, secondo me potresti usare l'arma del balletto. Cioè, via Skype magari il suono arriva sfasato rispetto ai movimenti, ma musica che parte sottofondo e tu che balli, loro seguono il ballo. Ah, bello. No? Dai, ci sta. Vedi che non mi conosci abbastanza. Ma come no? Ma ero sicuro che tu fossi una di quelle persone che balla benissimo, a ballerine provetta, proprio una cosa meravigliosa. Visioni di anarchia, ecco cosa posso fare. Aspetta un attimo che sta succedendo il panico, perché la gente sta chiamando gente qua, casino. Insomma, Riccardo, se lo escludiamo, no, si sente male, quindi mi ha dovuto chiamare per mettere via la voce attaccata al microfono. Riccardo, puoi parlare? Oh, sono al microfono? Sì, sei al microfono. Ci sentono tutti? Sei anche te, ciao. Sì. Ma ragazzi, ma che disagio è? Cioè, siamo io al telefono con Rachele, Lorenzo al telefono con Riccardo, e voi due siete a un metro di distanza. Noi siamo molto più lontani perché noi rispettiamo le distanze di sicurezza che ci illumina il nostro... Rachele, un attimo, potete essere in silenzio? Che non sente niente, se no... Cosa? Vuole parlare con Rachele. Ah, volete vuole parlare con Rachele? Grazie. Rachele, mi senti? No, non si sente. Mi sento, non lo sento. Come hai fatto a rispondergli se non lo senti, scusa? Vabbè, se mi sente, voglio chiedere cosa fa da mangiare stasera. Cioè, perché deve fare da mangiare Rachele stasera, scusa? Tu non fai un cazzo? Io non sono capace. Tra poco mi esplode il cervello e tra poco esplode anche la radio, perché voi due furboni state parlando uno nel microfono dell'altro. Cosa potrei mangiare stasera? No, mi tengo da tempo e ci penso meglio. Situazioni improbabili a Radio ZM. Siamo on air da tre giorni e già stiamo facendo delle minchiate senza un domani. Però effettivamente io sono zitto perché sto cercando di ragionare su come è possibile questo accrocchio. Eppure è veramente figo. Cioè, capito? Io chiamo una persona che sta chiamando Radio ZM per chiedere delle cose. C'è da dire, Riccardo, che hai prevaricato la telefonata che stavamo facendo a Rachele. Ma veramente? Comunque. Che egocentrico sei? Cioè, scusa, non sentiamo più Rachele da 20 secondi ormai. Scusate, adesso chiudo e così devi puttanare. Sparisci. Ciao compagni, ciao. Pusillanime, sparisci. Rachele, ci sei? Sì, non so chi abbia interrotto questa nostra conversazione, una presenza veramente maleducata, sgradevole. Ci scusiamo. Un verme così. Parole forti. Comunque chiamare le coppie porta benissimo, Prima veramente. Silvia, che praticamente faceva una proposta di matrimonio a Dario, così infilandosi in casa sua in tempi di coronavirus. Qua, esatto, mamma mia ragazzi, ma... Comunque, voi non sapete niente, ora ve lo spieghiamo. Abbiamo iniziato questo nuovo ciclo di telefonate radiofoniche e inchieste dei quartieri. Quindi Rachele, dici da dove chiami, cioè da dove ti sei fatta chiamare e cosa hai visto oggi nelle tue vie. Con la voce ben scandita, ben vicino al microfono. Non ho capito niente. Allora, devi dirci quello che hai visto oggi per strada. Cosa ho visto oggi per strada? E dove sei, allora, anche? Innanzitutto, il parco è ricoperto completamente da post-it gialli, tutti scritti esattamente nello stesso cazzo di modo, incredibilmente uguali, con scritto "bambini andrà tutto bene" e una facciona sorridente. Solo i bambini maschi sessisti, merda. Tutti uno dopo l'altro. E le bambine? Dimenticate, sono già morta. E le educatrici di 26 anni che cercano dei modi per fare educativo online? Non ci pensa nessuno allora? No, non ci pensa più nessuno, basta. Comunque non è vero, non è vero. Radio ZM è servizio pubblico, è stare vicino alle proprie compagne e compagni. E quindi chi altro ci sta ascoltando mi ha inoltrato un messaggio che già ti ho inoltrato via WhatsApp, che recita così: educativo online, oggi si parte. Tutti sintonizzati, pubblichiamo ogni giorno una sfida. Vi sfidiamo con una foto, un video, un'immagine. Ci sfidiamo a condividere e stare vicini anche da casa. Ogni giorno, o una volta sola, accogli la sfida. Pubblicala sul tuo profilo Instagram o fai una storia, ma tagga sempre Centro per Giovani. Chiocciola Centro per Giovani. Almeno un amico... chiedo scusa. Tagga sempre almeno un amico e metti anche Centro per Giovani. E l'hashtag chi... Challenge CAG. Ok, ho capito adesso. Hai capito cosa devi fare? Ho capito. Fantastico. Che il bambino di 3 anni non sa cosa fare. Va benissimo, però... cioè, ci mette in difficoltà così. Vabbè, facciamo così. Ti mandiamo a casa un compagno in formato tascabile. Si chiama Riccardo Badagliacca. E niente, cioè, penserà lui ad allietarti le serate per quello che può. Noi lo speriamo. Comunque, Rachele, un'informazione. Da dov'è che hai visto questa cosa? Dov'è che sei? Porta Vittoria. Quindi Rachele sarà l'inviata di Porta Vittoria. Grazie Rachele, verrai ricontattata nei prossimi giorni per le inchieste. Mi raccomando, apri bene gli occhi, guarda fuori la finestra. Se sei così spavalda di uscire o se sei obbligata a uscire. Ragazzi, non mi frega un cazzo o di se nessuno. Sei obbligata a uscire, perché alcuni lo sono perché devono ancora andare a lavorare, facci sapere cosa vedi, ok? Va bene, c'è anche l'Esse Lunga con la coda. Ah, è vero, l'Esse Lunga di Via Cena, già. Com'era la coda oggi, chilometrica? Una trentina di persone. Onesto. Sì, no, non tantissimo. Rachele, hai il bellissimo lusso di sceglierti una canzone che verrà trasmessa in radio, ovviamente ascoltateci. Ma prima... Ci penso e ve la scrivo, perché adesso è difficile. Ok, però prima ci devi dire come stanno le piantine. Le piantine stanno da Dio, non stavano mai, cioè non stavano bene così da dei secoli. Stanno per esplodere praticamente, sono delle piante mannare. Tutto questo è bellissimo. Cacciano di casa. Esatto, domani pianto ancora delle cose. Oh. Per fortuna avevo le scorte, capito, di piante da invasare. Grande Rachele, grande. Va bene. Quindi Rachele l'inviata di Porta Vittoria. Ci siamo, ti richiameremo nei prossimi giorni. Ciao. Grazie Rachele. Adesso aspettando la telefonata. Fermi tutti, potremmo chiamare anche qualcuno che non fa parte di questo centro sociale. Attenzione, continuiamo nell'Interland mentre ci aspettiamo la telefonata di Rachele. Quando va a prenderla? Vabbè, c'è gente che si prende male perché diciamo dei cognomi, ma intanto non ci ascolta nessuno, nemmeno dalla questura. Ci siamo? Vogliamo aspettare un attimino?